corrono per gli sospetti, giù per gli che tremono in forza, di belli ma di animo ecco le chi non la paventa per sé. Non esiste che belli, di scappetti, un terrorio, sognerò che morito di stelle, di che sorti mi levi con me. E ci vorrà, e ci vorrà, e si vede. Inizio esuberante quello sui 103.1. Oggi ho la fortuna di essere insieme al maestro Matteo Parmegiani. Buongiorno. Buongiorno di nuovo. E la grandissima artista dal nome davvero complesso, ma io sarò in grado di pronunciarlo, Ulduz Azraf Gandomi. Bravissima Elisa. Mamma mia, che grazie, sudata. Wow. Dopo vado a prendere la spugnetta per tamponare. Comunque è andata bene. E siamo qui con un sottofondo di musica classica perché? Perché in realtà vogliamo dare un'importanza vera a quello che fate all'interno dell'Associazione Senza Spine, ma soprattutto alla vostra prima opera che debutterà il 7 e l'8 novembre al Teatro Duse. E siccome l'opera è L'Elisir d'Amore di Gaetano Donizetti, pensate che ebbe la possibilità e solo per 14 giorni di creare quest'opera. Voi invece, così sotto questi applausi, da quanto ci state lavorando? Allora, da quando ci stiamo lavorando da tanto, però le prove una manciata di giorni e via. Ma io posso dire che facendo il calcolo, effettivamente, ho contato oggi 5 prove con il coro, possiamo dirlo? Boh, sì. Di regia. E con i solisti siamo entro le 14 giornate. Attenzione. Ah, quindi attenzione, quindi forse abbiamo... Non di più, anche se dietro c'è tutto un lavoro di preparazione, di mesi, di produzione, quindi se facciamo il conteggio dei giorni credo quelli che effettivi saremo... sono anche quei 14 perché avete voluto dare così un omaggio. Esatto. L'abbiamo pensato, abbiamo detto oltre i 14 giorni no non ci si rifiutiamo. Può. Attenzione. Tra l'altro tu Matteo sarai il direttore d'orchestra per entrambe le giornate. Sì, ci sono sempre io, nonostante i direttori dell'Orchestra Senza Spine ne siamo in due, io e Tommaso Sardi, che saluto. E... Ma la mia domanda è, scusa se ti interrompo, vai. Perché ci stavo pensando, voi come associazione siete più o meno 300, under 35, come musicisti. E chi ha fatto le selezioni per capire chi era giusto o meno dar la possibilità di partecipare? Allora, in realtà 300 è il numero ufficiale, in realtà proprio a fine settembre abbiamo fatto 9 audizioni e abbiamo ricevuto 370 domande di audizione, quindi se prima eravamo in 300 a ballare teoricamente adesso siamo più o meno il doppio, ma perfetto, perché abbiamo veramente audizionato tanti ragazzi, sono venuti da tutta Italia per provare a entrare in questa meravigliosa orchestra e devo dire che il livello è stato veramente molto alto. Di questo siamo soddisfatti, vuol dire che il nome Orchestra Senza Spine tra i musicisti e non solo, ma soprattutto tra i musicisti gira molto in Italia, perché sono venuti veramente da tutte le parti e con un grande entusiasmo, una grande pazienza, perché va bene, per noi audizionare tante persone è stato faticoso, ma anche per questi ragazzi che hanno preso il treno sfacchinato per venire fino a Bologna, dentro al mercato suonato, farsi sentire sempre uno stress per i musicisti, fare audizioni, ma e poi anche per gli artisti che fanno come mestiere un'arte performativa, come gli attori, come i musicisti, devono poi anche abituarsi a esibirsi davanti a delle persone e purtroppo anche a farsi giudicare, ma questo fa parte del gioco. Fa parte del gioco, assolutamente. Anche per te, Ulduz, mi dicevi che è impegnativo riuscire a creare un progetto con artisti giovani che insomma hanno tanta passione, tanto entusiasmo, e però anche da parte tua magari hai difficoltà per i, visti i tempi di gestione, perché sono tante persone, tante menti. L'opera, esatto, l'opera è un grande ingranaggio, è uno degli aspetti che mi affascina di più, è proprio questo, tutto deve essere millimetricamente pensato e realizzato, perché quando poi arriva l'orchestra tutto dovrebbe essere perfettamente pronto e coordinato. Perché dici dovrebbe? Dovrebbe lo perché lo è, lo attenzione, è. Attenzione, ci sono sempre dei micro dettagli, no? Fino all'ultimo il regista vorrebbe sistemare dei passaggi, le transizioni, le uscite, le entrate, dire ancora di più di quello che ha già detto. Allora, io ho parlato tanto in questo mese soprattutto, e sono molto contenta del risultato, che ancora dovrà essere messo in scena del tutto, per cui ci sono ancora delle prove per sistemare delle cose. Però ecco, devo dire che c'è stato un grande incontro tra le mie proposte di regia, l'idea che avevo e che ho realizzato, e quello che è stata l'umanità e gli artisti che abbiamo incontrato, in particolare Maurizio Leoni nel ruolo di Dulcamara, ha preso come dire, le proposte fatte e le ha esaltate all'ennesima potenza, e questo soltanto i grandi artisti, un maestro come lui, possono farlo. E lo dico perché conoscendo il ruolo, avendolo cantato in decine di spettacoli ed essendo un grande cantante, ha potuto fare questo. In più c'è l'inventiva, nel senso che grazie agli attori della scuola di teatro Alessandra Galante Garrone di Bologna, ho potuto dare allo spettacolo, ancora grazie al loro apporto, ancora diciamo un peso maggiore, un peso che si realizza in particolar modo nelle azioni e interazioni con il coro, e un coro che ho incontrato, appunto la corale Vittore Veneziani di Ferrara, e alla quale ho adattato le mie idee, le esigenze della scena. Quindi ho creato dei personaggi sulla loro fisicità e sulla loro sensibilità, e questo è molto divertente per me, perché ci siamo dati 3 giorni di incontri a Ferrara a settembre per studiarli, cioè li abbiamo visti, come si muovevano, chi erano, che sezione, di quale sezione facevano parte, e gli ho proposto dei ruoli che vedrete particolarmente comici, perché ci sono, vabbè, posso dire alcuni ruoli, sì, possiamo dai, dire qualcosina, non svegliamo troppo. Possiamo dire, Matteo? Allora, io ci tengo moltissimo a tutti i singoli personaggi, perché sono costruiti su di loro, e per costruito intendo che ho dato delle indicazioni di età, di situazione, diciamo, di situazione sociale. In particolare sono molto legata agli Umarels, che è un gruppo, è un termine che si usa, è nato a Bologna con questo scrittore di cui ora mi sfugge il nome, ma diciamo che gli Umarels sono questi signori che anziani, diciamo, di solito si trovano in prossimità di un cantiere, esatto, per commentarne i lavori, esatto, anche se non ne hanno mai, esatto, avuto a che fare. Ecco, sono questi signori che commentano la scena, sono costantemente presenti, sono 3, io li chiamo le mie 3 civette, perché sono costantemente in scena in tanti momenti dello spettacolo, e aiutano Nemorino, commentano la scena, sostanzialmente danno un peso specifico allo spettacolo, particolarmente comico, ecco. E poi ci sono le pettegole, il coro è un coro di pettegoli, perché tutti vogliono sapere di Adina, vogliono sapere tutti chi sceglierà la più Quindi bella del parco. I commenti da dietro le quinte. Per... Sì, esattamente. E, non posso dire, mi è stato vietato, non posso dire di più dei personaggi principali e dell'ambientazione, però... oltre che è ambientata in un parco, quindi non vi svelerò più di questo. Ma se no che ci vengono a fare in teatro? Se dopo sanno tutto. Esatto. Ormai abbiamo fatto sentire già parte della composizione musicale. Beh, la cosa migliore dello spettacolo è vederlo, perché esatto, raccontarlo è bello, ma nel raccontare si perde un passaggio, che è quello vivo del teatro. L'emotività esatto, di sentire quelle vocalità, quella musica, l'orchestra, è un'emozione di tante cose che si inseriscono. Ed era interessante anche quando mi parlavi del tuo viaggio a Berlino, hai avuto modo Berlino, anche lì di attingere un po'. Ecco, e questa è una cosa molto bella di cui mi piacerebbe parlare, cioè il progetto si può dire che a marzo l'abbiamo ripreso in mano, abbiamo cominciato a pensare a Elisir d'Amore nel 2013-2014 quando è nata l'associazione. Abbiamo però pensato a un progetto più adatto alle nostre possibilità in questo momento e quindi l'ambientazione iniziale pensata a marzo con il team creativo era totalmente differente. Ma il viaggio che ho fatto proprio tra marzo, aprile e maggio a Berlino, nel giro di un mese ha preso una nuova piega, una nuova dimensione. Pensavamo inizialmente di ambientarlo in una fabbrica. Questo avrebbe reso il nostro lavoro impossibile perché grazie al Teatro Comunale di Bologna, vogliamo dirlo perché non l'abbiamo ancora detto, patrocinio esatto, il Teatro Comunale di Bologna ci ha dato la possibilità di realizzare anche lo spettacolo dal punto di vista dell'illuminotecnica, dei costumi, ci hanno dato un grandissimo apporto. Poi ci saranno alcuni cantanti che si sono formati a scuola dell'opera, appunto legata al Teatro Comunale. E devo dire che appunto il work in progress è stato estremamente influenzato da Berlino, perché vedi questi parchi bellissimi nei quali la gente fa qualsiasi cosa, qualsiasi. Quindi dal caffè alla doccia, al pranzo, sì, al dal sacco, barbecue al yoga, al pettegules, la birra. Ci manca veramente che si possano fare la doccia nel parco e il quadro si completa, nel senso che c'è veramente un'umanità variegata in questi parchi che ti lascia alle volte un po' sconvolto, perché i tedeschi appena hanno 3 secondi di sole si buttano là al parco, miracolo, gridando al miracolo. Io sono sempre stato, non c'entra un tubo però, da questi tedeschi che si comprano tutti le decappottabili, che poi già hanno 2 giorni di sole e poi piove tutto l'anno. È uno stato sì. Però loro sì, quando c'è il sole prendono la decappottabile e vanno al parco, e quindi io nella 365 giorni per aspettare anche solamente 3 esatto. Di sole. Esatto, e appena arrivano te li devi godere subito, quindi in quei 3 secondi il parco si riempie, e quello esattamente che succederà per Elisir, perché in 3 secondi questa umanità si affaccerà con una esuberanza, una voracità incredibile. Benissimo, allora siccome il vostro ovviamente debutto è con l'Elisir d'Amore, ma non saranno le uniche date sia per questo fine anno ma anche per il 2018, io farei uno stacco con una base di una soundtrack, quindi di una colonna sonora di un film molto famoso che chissà se verrà ripreso anche dalla vostra orchestra. Noi ci vediamo tra poco. E su questo rientro così epico davvero, quando uscì per la prima volta questa colonna sonora, molti furono colpiti perché dà una grande carica, una grande emotività. È vero, come la musica. Come la musica classica, diciamolo. E vi invitiamo, possiamo invitare tutti. Invitiamo tutti. E abbiamo detto che la prima data di così esordio è il 7 novembre. 7 novembre e 8 la replica per Elisir d'Amore. E poi tutti gli altri concerti della stagione Senza Spine et Duse, della quarta stagione Senza Spine et Duse, l'ormai tradizionale Bollicine, che è un concerto, per chiudere il fine anno, esatto, con cui il concerto dove festeggiamo con il pubblico bolognese non solo alla fine dell'anno, il 27 e il 28 dicembre, e alla fine delle serate ci sarà un brindisi con tutta l'orchestra, con noi, cerchiamo di sopravvivere, perché in realtà dopo ne abbiamo un altro paio di concerti esatto, da fare prima di Capodanno. Prima di fare la fine dell'anno. Noi solitamente, musicisti, festeggiano il Capodanno solitamente il 2 o il 3 di gennaio. Con perché, calma. Perché, no, perché fino all'1, cioè, tutti i musicisti il 1 di gennaio lavorano. Di solito sì, perché uno non ci pensa, però noi Capodanno lavoriamo sempre, quindi festeggiamo sempre un po' dopo. Ma in effetti, guarda, io ricordo con tanto affetto il mio risveglio d'infanzia, il primo gennaio, ovviamente TV accesa sul concerto dell'anno, Vienna, il concerto di Vienna o quello della Fenice, dipende dai gusti, oppure anche tutti e due, perché non ascoltarli entrambi. Un po' cambiando esatto, canale per non dare però chi vuol venire a sentire dal vivo e magari i biglietti del Noisy Art Concert di Vienna non li ha trovati, anche perché costano più di 1000 euro, esatto, i nostri sono molto più economici, venite al Duse e vi divertirete lo stesso, però il 27 e il 28 di dicembre, esatto, molto di più assolutamente. Poi lasciamogli qualche giorno, poverini, per riprendersi, poi si ripigliano per un mesetto perché il concerto subito dopo, che poi rimanda all'ultimo brano che abbiamo ascoltato, al Pirati dei Caraibi, si chiama Film Music, l'abbiamo fatto anche l'anno scorso, ovviamente con altre colonne sonore, quest'anno ne proporremo di nuove, ma non svelo quali, perché sennò... Tra l'altro la cosa curiosa è che, oltre all'orchestra ovviamente che accompagna appunto le basi di questi film, ci saranno anche degli attori sul palco. Adesso qui stiamo raccontando troppo. No, non ho detto niente, facciamo finta di niente. Ma passiamo al successivo evento. Il successivo evento invece è che è poi l'ultimo, quindi questo abbiamo detto 7 e 8 febbraio. E invece il 15 di marzo è il Social Concert, che è un concerto, è un format in realtà che abbiamo inventato un paio di anni fa e che prevedeva, e adesso è in fase di evoluzione, ogni anno si rinnova, prevedeva la scelta da parte del pubblico tramite i social network di il programma che uno voleva sentire. Quindi il primo anno avevamo fatto dei menu, il menu tedesco, il menu italiano, il menu francese, e ognuno votava il menu che preferiva, e poi dopo aveva vinto il menu russo e avevamo fatto tutti i brani russi. Ah, wow. E in realtà quest'anno faremo invece una battaglia tra compositori, e quindi le persone da casa sceglieranno nei mesi precedenti al concerto, che sarà il 15 marzo, lo ricordiamo, nei mesi precedenti al concerto sceglieranno qual è il compositore, qual è la sinfonia che preferiscono ascoltare. Nella prima parte di concerto invece verrà eseguito un concerto per solista e orchestra, e questo solista verrà selezionato tramite un altro format che ci siamo inventati l'anno scorso, che è chiamato Classics Factor, che è in maniera molto pop di raccontare un concorso per giovanissimi solisti, che avrà luogo i mesi precedenti anche questo concorso del concerto Social Concert. L'anno scorso per esempio vinse un'arpista, una bravissima arpista, e quest'anno chissà chi vincerà. Un concerto partecipato in cui anche il pubblico avrà la possibilità di votare per scegliere il solista vincente, e questo solista come premio suonerà al Teatro Duse il 15 di marzo, quindi doppio appuntamento social per il 15 di marzo al Teatro Duse, venite in tanti. Ah sì, onore al merito per queste collaborazioni che ricordo potete approfondire tramite i social network, basterà anche cercare Associazione Senza Spine, Orchestra Senza Spine, e il sito www.senzaspine.com. in più tutte le meravigliose attività che accadono e accadranno al Mercato Sonato, che è la nostra casa, è una casa incredibile, piena di attività, piena di tanti laboratori, compresi quelli che abbiamo detto prima su Elisir d'Amore, ma non solo, laboratori di musica, laboratori di artigianato. Davvero ce n'è per tutti, una fucina culturale dove si accendono i riflettori per dare l'importanza all'arte e alla musica, e noi saremo lì in prima fila come sempre, perché ha dato anche la possibilità di avvicinare davvero i bambini tramite anche i corsi appositamente studiati per loro. C'è una scuola di musica che abbiamo aperto quest'anno per bambini che non hanno possibilità o hanno poche possibilità economiche per poter accedere alla scuola di musica. C'è un crowdfunding aperto dove si può donare per dare, esatto, sulla rete del dono, per dare la possibilità a 20 bambini a partire da gennaio di avere 20 borse di studio per studiare musica completamente gratuitamente, e tutto il resto, tutti gli altri corsi che sono già partiti, quindi se avete dei bambini fateli venire, perché ci sono tante bravissime maestre o maestri di musica che poi sono anche musicisti dell'Orchestra Senza Spine che insegneranno i vostri bambini, e il costo della retta di partecipazione, a parte queste 20 borse di studio gratuite, sarà comunque in base al reddito all'ISE, al reddito familiare, proprio per cercare, visto che il Mercato Sonato è in una zona di Bologna con un po' di difficoltà, ma che noi invece stiamo cercando a tutti i costi di rivalutare, sì, una riqualificazione, è una zona meravigliosa di Bologna. Bene, bambini soprattutto di quel quartiere, venite numerosi, perché studiare musica fa bene e dovete farlo assolutamente. Sì, ripeto, quindi che venga colta la musica senza le spine, davvero i miei più grandi complimenti. Ci vediamo ovviamente il 7 novembre al Teatro Duse per la prima di Elisir d'Amore. Io vi ringrazio per essere stati qui con me. Grazie. E noi chiudiamo quindi Chi fa da sé fa per te con un brano, ritornando quindi alla prima mezz'ora di questi nuovi artisti che cercano di combinare la musica classica con quella moderna. Abbiamo Smooth Criminal di David Garrett. Grazie ancora, noi ci vediamo venerdì prossimo. Ciao, ciao, a presto.